A bordo campo. Sudafrica 2010. Nel cuore del mondiale. Sulla strada verso Sudafrica 2010, oggi nostro ospite è un personaggio davvero particolare. Beh, parliamo subito di calcio, Dottor Ernesto Leva, benvenuto a bordo campo. Le chiedo subito, qual è la sua squadra del cuore? L'Ajax Cape Town o il Santos Cape Town? Assolutamente l'Ajax per Cape Town. Beh, insomma, sì, perché quell'Ajax richiama poi l'arancia meccanica, la grande Ajax di Cruyff. Beh, allora, perché chiediamo al dottor Ernesto Leva, responsabile della chirurgia neonatale della clinica Mangiagalli e Regina Elena di Milano, perché la sua squadra del cuore è una squadra di Cape Town? Perché il legame che lo unisce appunto con Città del Capo e le sue township è forte e coltivato negli anni. Ci spieghi un po', dottore, da dove nasce questa passione calcistica così particolare? Devo dire che la passione calcistica nasce frequentando i bambini delle township di Cape Town, i quali vivono prevalentemente di calcio europeo, quindi le squadre europee, soprattutto l'Inter, che è la squadra più bella europea, è molto ben conosciuta, e l'Ajax Cape Town è la squadra di riferimento della maggior parte della popolazione nera lì in Sudafrica. Vivendo a stretto contatto di lavoro con loro, è ovvio che ho imparato a conoscere l'Ajax Cape Town e a vivere le loro esperienze. Mai come in questo caso il calcio è il pretesto per raccontare storie che col pallone si intrecciano, ma perché il pallone diventa momento di divertimento ma anche di sollievo, no? Per bambini che hanno ben altri problemi a cui pensare. Ecco, dottore, ci spieghi un po' a Cape Town, nelle township, con quali obiettivi, per fare cosa, con quali strutture? È un progetto che dura da molti anni, da quando nel 2000 iniziai a fare il primo viaggio in Sudafrica per un periodo di 3 mesi, per poi decidere nel 2002 di spendere un anno di esperienza lavorativa in quella realtà, dove con la mia famiglia decisi di trasferirmi. E lì questo anno speso aveva sostanzialmente due significati. Il primo, di aver l'onore di frequentare uno degli ospedali che per noi rimane oggi ancora il punto di riferimento per noi chirurghi pediatri. Quelli che sono oggi i maggiori chirurghi pediatri nel mondo hanno avuto un periodo di esperienza in questo ospedale. E dall'altro lato il fascino che questo paese da subito mi ha infuso, perché il Sudafrica è una nazione fantastica, fatta da gente fantastica, con una natura fantastica, e noi come medici veramente possiamo fare molto per questa popolazione, e le soddisfazioni che riceviamo da questa popolazione per quello che facciamo sono veramente molto alte. Eh sì, ospedale che è il Red Cross Children Hospital di Cape Town, diciamo, come ci ricordava dottore, un po' la mecca della pediatria mondiale. In particolare, ecco, ci racconti un po' la realtà in cui operate. Mi diceva poco prima di entrare in diretta, questo ospedale è la mecca appunto della pediatria mondiale, ma il problema e la peculiarità è il fatto che fuori da quei cancelli c'è l'Africa, quindi una realtà del tutto diversa dove intervenire, dove operare. Assolutamente, il Sudafrica ancora oggi per noi medici, soprattutto chirurghi, rappresenta un punto fondamentale nella formazione. Ci sono realtà ospedaliere assolutamente sovrapponibili alle nostre, e come diceva lei giustamente, fuori dal cancello c'è l'Africa, significa 10 volte la quantità di lavoro che noi facciamo. È chiaro che per noi chirurghi il lavoro non è solo tagliare e cucire, ma è tagliare e cucire e poter fare le cose bene. E una realtà ospedaliera come questa ti consente non solo di aiutare la popolazione, ma poi di vederne i risultati che tu fai. Quindi il Sudafrica è sicuramente un punto di arrivo per molti chirurghi. Per noi chirurghi pediatri, il Red Cross Children Hospital di Cape Town rappresenta uno degli ospedali top nei quali poter lavorare nel mondo, con personale, professori, medici e gli stessi infermieri, personale di altissimo livello che ha tantissimo da insegnarci. Tecnologie e tecniche all'avanguardia, fuori però ci sono le township, c'è anche una cultura che spesso è quanto di più distante dalla medicina e dalla chirurgia ad alto livello, no? Leggevo ad esempio che in molti casi agli interventi da fare sul campo e sui pazienti c'è anche la necessità di abituare le persone poi ai controlli periodici, a una cultura che poi dia validità al risultato ottenuto chirurgicamente, no? Sì, che è stato un po' il motore di questi progetti, e sostanzialmente il progetto che abbiamo in essere oggi ha proprio questo significato. La quantità di lavoro che noi ci troviamo a svolgere in una realtà come questa di Cape Town fa sì che spesso poi il follow-up di questi pazienti venga un po' perso, non per negligenza dei medici, ma anche per la realtà sociale nelle quali queste popolazioni vivono. Per loro è solo un problema trovare i soldi per recarsi in ospedale a fare un controllo. Allora l'idea che abbiamo sviluppato, grazie anche al supporto della Regione Lombardia e di un'associazione ONLUS, che è l'Associazione Cieli Azzurri, che attraverso un bellissimo progetto che si chiama Bambini Senza Frontiere ha contribuito allo sviluppo di questo progetto, ha fatto sì che noi potessimo innanzitutto creare un servizio di follow-up per i neonati chirurgici all'interno dell'ospedale e pian piano riprodurlo nelle varie township. Perché, come ribadivo prima, la problematica della popolazione è quella anche di recarsi in ospedale, quindi abbiamo pensato che debba essere il medico e la struttura a recarsi nella realtà dove questa popolazione vive. E da lì sono iniziati i primi ambulatori nelle township, il primo è stato a Kailicha, che è la più grossa township di Cape Town, e piano piano stiamo identificando dei siti all'interno delle township dove poter svolgere queste attività. Insomma, l'obiettivo diventa portare l'ospedale dal paziente, no? Nella township, laddove, lo ricordiamo, Cape Town ha almeno 5 grandi township e sono agglomerati pseudo-urbani che spesso sfiorano anche il milione di abitanti, quindi questa è la realtà, e spesso sono anche molto lontani dalla Cape Town vera e propria. Questa è l'eredità, usando un eufemismo, che ci ha lasciato l'apartheid. Professore, immagino tanti pazienti, tante storie che sono nei suoi ricordi. Ci sono degli episodi particolari che l'aiutano quotidianamente a pensare al Sudafrica? Sicuramente sì, diciamo che il Sudafrica mi accompagna e accompagna chi come me poi dopo di me ha avuto esperienze nella nostra realtà in quell'ospedale, per capire quante cose noi abbiamo nella nostra realtà italiana e quante cose possiamo utilizzare nella nostra realtà italiana per i nostri pazienti, cose che lì difficilmente si hanno, soprattutto quello che la gente ha in questa realtà. I casi sono innumerevoli, sono stati davvero tanti, e quello che io dico sempre, racconto sempre parlando, è che oltre a essere stata una grandissima esperienza medica, questa è stata una grandissima esperienza umana, non solo per me ma anche per la mia famiglia che ha avuto la possibilità di viverla. Perché siamo partiti convinti di avere un po' di problemi e siamo tornati convinti di avere qualche fastidio, insomma. Le chiedo anche, entrare nelle township e anche confrontarsi poi con la medicina tradizionale, no? Delle tante etnie sudafricane. Basti pensare che ad esempio le partite dei mondiali verranno trasmesse in 16 diverse lingue, quindi insomma, se non siete preparati nel Zulu, nello Xhosa, auguri. Esatto. Detto questo, entrare appunto nelle township e confrontarsi con quella medicina, quali sono i problemi concreti che avete trovato dal punto di vista culturale? Insomma, io l'ho visto l'antro di uno di questi medici stregoni, e insomma, non dico che siamo alle ali di pipistrello, alla coda di serpente, ma poco ci manca. No, direi che siamo alle ali di pipistrello. Il grosso problema è che la medicina tradizionale presente nelle township è una medicina assolutamente antica, che non si basa su principi medici, quindi la popolazione che crede in questi personaggi ovviamente identifica in questo tipo di medicina una medicina valida. Il messaggio che noi cerchiamo di portare, non solo noi chirurghi pediatri, ma tutte le associazioni sanitarie che intervengono nelle township, è proprio quello che il servizio di assistenza è un qualcosa di diverso da quelle che sono state fino a poco tempo fa le loro credenze. Di questi stregoni, diciamo, sempre più vanno scomparendo, grazie a Dio, perché pian piano la medicina si sta diffondendo sempre di più nella realtà delle township. Basti pensare che nel 2002, quando lavorai in quella realtà, tornando, sviluppai insieme sempre al supporto della Regione Lombardia un progetto per poter dare ai bambini affetti dall'infezione HIV le terapie. Oggi tutti i bambini che vengono riscontrati HIV positivi possono usufruire delle terapie antiretrovirali, ma la grossa conquista che oggi è stata fatta è che tutte le donne in gravidanza possono testarsi sull'HIV. e questo fa un'enorme differenza anche per noi chirurghi pediatri, che poi ci troviamo a gestire magari neonati con malformazioni congenite in più affetti da HIV. Anche perché su questa patologia in particolare è fortissima l'influenza di miti e luoghi comuni che ostacolano il lavoro di prevenzione e informazione. Assolutamente sì, ma anche qui sono stati fatti dei grossi passi, soprattutto negli ultimi anni. L'informazione fatta sulla popolazione, la scolarizzazione di circa il 40% dei bambini che vivono nelle township, che per noi è un numero pazzesco, ma anche lì è un numero pazzesco rispetto a come era prima, fa sì che l'informazione su questo tipo di problematiche, di malattia, si va via via diffondendo, e quindi la cosa migliore è prevenire, e questo pian piano sta entrando nella mente delle persone, anche delle township. Sento dalla sua voce che c'è tanta speranza, no? Per il futuro e il presente anche di questo paese. È una speranza che possiamo rivolgere dal suo punto di vista anche per quella che potrebbe essere, che sarà l'eredità di questa Coppa del Mondo? Penso di sì, sicuramente credo che questa Coppa del Mondo per il Sudafrica rappresenti un momento di grande crescita. Lascerà nello Stato una serie di infrastrutture che saranno utilizzate dalla popolazione. Di queste infrastrutture ovviamente anche noi medici ne faremo uso e potremo utilizzarle proprio per portare la medicina dove ancora magari non è arrivata. Io ogni volta che penso a Sudafrica penso positivo, ma sono convinto che è un popolo particolare, che è stato guidato da un uomo particolare, che questa mentalità che questo uomo ha infuso veramente si sta diffondendo sempre di più nella popolazione e che sta cambiando il Sudafrica. E beh, insomma, doveroso il ricordo di Madiba Mandela, e speriamo di trovarlo veramente sulle tribune del Soccer City Stadium di Johannesburg a festeggiare i suoi Bafana Bafana. Grazie intanto a Ernesto Leva, capo della chirurgia neonatale della clinica Mangiagalli e Regina Elena di Milano. E allora, per il momento, dottore, forza Sudafrica, poi potremo tornare a dire forza Ajax Cape Town. Ok, grazie a voi. Per A Bordo Campo Sudafrica 2010, nel cuore del mondiale di oggi, è tutto. Vi ricordo l'appuntamento con il nostro viaggio verso i mondiali, sempre per sabato prossimo, sempre alle 13:15, domenica, domani, invece l'abituale appuntamento con le piccole grandi storie dello sport con A Bordo Campo a partire dalle 14:30. Potete scriverci alla nostra mail abordocampo@radio24.it e riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it. Un ringraziamento a Paolo Corleoni in regia, un saluto da Dario Ricci.